Mix 24, musica e storia. Buongiorno e bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e qui... io sono Franco Schipani. Ciao a tutti. Riciao Franky. Ciao, ciao, ciao. Franky, siamo nel 2002, l'anno dell'euro. Dopo il lunghissimo percorso di nascita della moneta unica che abbiamo raccontato per tutti gli anni 90, nel 2002 arriva l'euro materialmente nelle tasche degli europei. Dal 1 gennaio del 2002 inizia a circolare nei 12 paesi che hanno aderito all'Unione Europea. Per un breve periodo, che cambia poi da paese a paese, circola la doppia moneta e poi c'è il passaggio definitivo alla moneta unica. La nostra lira va in pensione il 28 febbraio del 2002, dopo 140 anni di storia. E adesso ci dobbiamo abituare alla nuova moneta. Vuoi un po' di numeri, Franky? Sì, per favore. Ci tieni tantissimo. Tantissimo. Beh, guarda, è semplice, perché allora, il caffè al banco passa da 900 lire a 90 centesimi. Invece fuori, al servizio a tavolo? Franky, 1 a 10. La pizza margherita da 6.500 a 7 euro. Il giornale da 1.500 a 1 euro, 1,50 euro, dipende. Insomma, il raddoppio netto di tutto. Ma ti ricordi la curiosità e la fila per ritirare materialmente i primi euro, Franco? Io no, perché ero negli Stati Uniti, quindi scusa, io viaggiavo dollari. In dollari, e quindi il problema è stato poi quando ci pagavano a noi in euro dall'Italia a fare la conversione, però quello è un altro problema. Ah, è la tripla moneta, è il la triplo tripla passaggio. Moneta, sì, sì. Franky, facci ballare adesso. Ok, e questo è il motivo top delle classifiche italiane del 2002. Questa l'hai riconosciuta, cara Alessandra, e Shakira. Ma vedevo, certo, che ballavi. Shaki. Whenever, whenever. Questo è il primo singolo in inglese, appunto, della cantante colombiana. Cantante che poi l'ha giustamente fatto anche in spagnolo, versione spagnola, che si chiamava Suerte. Suerte. E questo è il brano preferito della nostra Rachele Caracciolo, quando fa Tapirulan. Ah sì? Ognuno ha i suoi... Sì. Ognuno, però un pezzo azzeccato. Brava. Shakira funziona sul tapiro. Sì, sì, sì, sì. Ma l'Italia, Franky, del 2002, che anno è in musica? Che anno è? Guarda, te lo spiego con un mix che è stato sapientemente cucinato come al solito dal nostro mix master Alessandro Chiappini. Hai capito che anno è, Alessandra? Hai capito? Questo Beh, è sì. Sanremo, ecco, capisci? Nel ecco, resto io del avevo mondo, questo sospetto. Nel resto del mondo c'è la rivoluzione, musica elettronica, rock, e musica latina, commissioni tra hip hop, rock, blues. E invece a Sanremo vincono i Mattia Bazzar con Messaggio d'amore e poi Doppiamente fragile, nell'altra categoria, Anna Tatangelo. Non si muove assolutamente nulla, tant'è vero che torna anche Pippo Baudo alla conduzione del festival, e anche alla direzione artistica c'era Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere che lo accompagnavano. Ecco, televisivamente parlando, questo spettacolo ha avuto una media molto bassa. Strano. Sotto i 12 milioni di telespettatori. Frenchi. Quindi ormai siamo alla deriva, mia cara Alessandra. Tu puoi anche parlare di deriva, ma in realtà mi hai fregato, perché sei partito così a schiaffo su Sanremo, io non ero assolutamente pronta. E non mi sembra comunque che succeda moltissimo a Sanremo. Mentre nel nostro paese in questo 2002 succedono un sacco di cose, a partire da un gravissimo atto terroristico. Il 19 marzo del 2002, infatti, Marco Biagi, professore di diritto del lavoro, consulente del ministro del lavoro Roberto Maroni, è colpito da due uomini davanti a casa a Bologna. Quella sera stavamo aspettando Marco per la cena. Avevo messo a bollire l'acqua della pasta e quando mi hanno chiamata e sono scesa e c'era Marco riverso sotto al portico, la bicicletta rovesciata, la sua borsa con le sue carte per terra, le chiavi. Ricordo che c'erano tanti ragazzi, una decina di ragazzi che mi guardavano con occhi attoniti, soprattutto quando ho immediatamente detto lo hanno ucciso. Il maresciallo mi ha detto ma chi è questa persona? Io ho detto lo hanno ucciso le Brigate Rosse. Per i familiari di Marco Biagi, quello che abbiamo appena sentito è la voce della moglie Marina, per i familiari è immediata la certezza che a uccidere Biagi siano state le Brigate Rosse, perché da tempo in casa Biagi si viveva in un clima di paura, soprattutto da quando il 20 maggio del 1999 era stato ucciso Massimo D'Antona, anche lui vittima delle BR. Per le nuove Brigate Rosse Marco Biagi, principale autore del libro bianco per il lavoro, era diventato un obiettivo da colpire. Altezza soggetto 1,75 e 1,78. Capelli più scuri in cima, bianco-grigi a metà e grigio-neri. Lunghezza normale. Le condizioni generali e attuali del soggetto sono di un obiettivo senza protezione, che si sposta a piedi. Sembra avere una certa regolarità nelle abitudini e in particolare nell'utilizzo della bicicletta. All'avvicinamento del soggetto al portone, le forze si avvicinano e lo colpiscono. Ecco, un obiettivo senza protezione. Ma prima del 19 marzo del 2002, Biagi aveva denunciato più volte la sua situazione di pericolo. Caro ministro, desidero informarla che oggi ho ricevuto un'altra telefonata minatoria da un anonimo che asseriva di essere a conoscenza dei miei viaggi a Roma senza protezione alcuna. Qualora dovesse malauguratamente occorrermi qualcosa, desidero si sappia che avevo informato inutilmente le autorità. Dopo il suo omicidio, come sentiamo in una sua lettera drammatica, scoppia un caso politico per la mancata protezione, appunto. Amici e nemici, che comodità! Villaggi di fango contro grandi città! Salvami, salvati, salvaci, salviamoci! Salvami, salvati, salvaci, salviamoci! Salvali, salvami, salvati, salviamoci! Salvami, salvati, salviamoci! Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Ti prego, questo era Giovanotti con Salve Me e la splendida Giorgia con Vivi Davvero. bellissimi, e mi ha colpito molto una cosa di Jovanotti, una frase: l'indifferenza è il più grande peccato mortale. A proposito di Biagi, esatto, io ti racconterò subito dopo la pubblicità un altro fatto che non lascia assolutamente nessuno indifferente, subito dopo la viabilità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 2002, io sono ancora Alessandra Fiori, qui con me c'è Franco Schipani. Ciao, bentornati. Franchi, te l'avevo annunciato prima della viabilità e ci torno, perché in questo 2002 un fatto di cronaca pazzesco monopolizzerà tutta l'informazione nazionale. È un giallo, è il giallo di Cogne. È il 30 gennaio quando un bambino di 3 anni, Samuele Lorenzi, viene trovato ucciso nel letto di casa a Cogne, appunto, in Valle d'Aosta. I medici trovano il bambino con numerose ferite alla testa e alle mani e lo dichiarano morto alle 9:55. 6 anni dopo, Anna Maria Franzoni viene condannata in via definitiva per omicidio a 16 anni di carcere. Secondo la sentenza aveva ucciso suo figlio colpendolo alla testa per 17 volte, ma la Franzoni si è sempre dichiarata innocente. Tantissime volte ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele. Mi manca abbracciarlo. Io ho ricostruito momento a momento della mia vita, ma vedo e sento che tutto quello che mi dicono sono assurdità. Non ci sta in quello che loro dicono, non ci sta. È l'inizio di una lunga vicenda giudiziaria, ma anche di uno dei casi di cronaca mediaticamente più seguiti e dibattuti di tutta Italia. È per questo caso che Bruno Vespa, nel suo Porta a Porta, inaugura infatti la lunga e fortunata stagione dei plastici. Infatti Vespa presenta una riproduzione della villetta dove era avvenuto l'omicidio e viene utilizzata per spiegare agli spettatori tutte le dinamiche macabre con tanto di bacchetta da professore. Ma Franco, tornando al caso, dopo la conferma della condanna a 16 anni da parte della Corte di Cassazione, nel 2016, dopo 6 anni di reclusione, la Franzoni ha ricevuto gli arresti domiciliari e sta scontando la pena nella sua abitazione in provincia di Bologna. Franchi. Estate 2002, vero? Estate 2002, perché non semplice, però mentre il caso di Cogne era ancora aperto e apertissimo, comunque, incredibilmente, ma così funziona, da qualche parte si ballava. Assolutamente, abbiamo parlato prima del Festival di Sanremo, non può mancare il Festival Bar, questo Festival Bar che continua a portare il pubblico in piazza o nelle arene, come succede ormai abitualmente. Infatti il Festival Bar si conclude alla quella di Verona, è diventato ormai un classico, uno spettacolo coinvolgente, cara Alessandra. Coinvolgente. Tu hai una passione per questo Festival, sì, perché, Bar, perché, ormai perché è diverso, perché ci ti sono i giovani, più. Perché anche, guarda, lo presentano come al solito dei giovani, infatti Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi, Michelle Hutzinger. Lo dici con particolare gioia? Sì, Michelle, mi piace molto, Hutzinger. Lei è molto simpatica, funziona. E solo comunque, perché è simpatica. Sì, solo simpatica, anche una bella ragazza, per carità. E comunque vi partecipano a questa edizione, come al solito, tanti cantanti. L'edizione del 2002, ben 77 cantanti, anche italiani. Italiani che in questa edizione vanno alla grande. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie. Sta a vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti. Scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso di te, per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. La timidezza. Tutti vogliono viaggiare in prima classe. Ligabue, Rosso Relativo, Tiziano Ferro, protagonisti assoluti di questa edizione 2002 del Festival Bar. Ha un po' entusiasmato la regia questo mix. Sì. Molto, molto, molto. Franky, l'estate del 2002 passa, come tutte le estati, passa anche quelle con l'autunno. Il 31 ottobre un violento terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli colpisce il Molise e crolla un unico edificio, ma è la scuola di San Giuliano di Puglia. I bambini della scuola elementare sono rimasti di sotto, credo che sono tutti raggruppati sotto una trave. Sono 54 bambine, sono 78 maestre, non lo so. Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli, a nome di tutte voi e di tutti i papà. Affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. Ecco, 54 bambini e le loro maestre restano intrappolati nella scuola, sotto le travi che crollano. Moriranno 27 bambini e un insegnante. Altre due persone muoiono in paese. È un dramma che scuote tutta la nazione, naturalmente. E il 3 novembre è il giorno dei funerali delle vittime del terremoto. Anche il Papa ricorderà quei bambini chiamati gli angeli di San Giuliano. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza spirituale alle persone colpite da questi tragici eventi, pensando specialmente ai bambini coinvolti nel crollo di un edificio scolastico a San Giuliano in Puglia. Sempre il Papa Giovanni Paolo II è il protagonista di una visita importante. Il 14 novembre del 2002, per la prima volta, un pontefice mette piede in Parlamento. Mi sento profondamente onorato per la solenne accoglienza che mi viene oggi tributata in questa sede prestigiosa, nella quale l'intero popolo italiano è da voi degnamente rappresentato. Un discorso ricco di temi, il legame tra la Santa Sede e l'Italia, l'opera di avvicinamento e collaborazione tra Stato e Chiesa, a cui nel rispetto della reciproca indipendenza e autonomia hanno contribuito tanti papi, fino appunto a Giovanni Paolo II, e poi il rispetto per l'uomo, la sua dignità e per i suoi inalienabili diritti. E infine, sempre il Papa, davanti a una folla di 250.000 fedeli riuniti a San Pietro, il 16 giugno del 2002 proclama Santo Padre Pio. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, no, no, no, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24, musica e storia. E questa è Alexia con Dimmi Come, cara Alessandra. Caro Franco, bentornato anche a te su Mix 24, musica e storia nel 2002. Dimmi come. Dimmi come. Tu non sai cosa rispetto se non senti il dolore, non fa una piega. Com'è profonda Alexia. Senti, vero? Comunque tu con Alexia, a tradimento, mi hai riportato al Festival Bar. Ti hai riportato Bar. Al Festival Bar. Perché vero? Lei ha trionfato al Festival Bar, però si è piazzata benissimo anche a Sanremo. Ah, quindi doppietta. Una, mi sì, hai fatto... una delle poche novità. Però sai, io per lei impazzisco completamente, la do veramente una ragazza. Ah, sì? piena di talento. Comunque al Festival Bar, tanto per concludere, ci si va da solo o da sola, oppure magari ci si prova in coppia. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu dentro me, tutto il resto è invisibile. Cancellato ormai, conquistato dagli occhi tuoi, quel che solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu a dirmi che solo tu dentro me. Perché mi piaci in ogni modo, a ogni lato, prospettiva. Franchi, scusami, va tutto bene, tu mi hai annunciato un duetto, però qui Laura non c'è. No, c'è, sta arrivando, Laura non c'è. Oh, ti è piaciuta? Molto, brava. Vabbè, comunque hai capito. La Laura Pausini c'è insieme a Neck in questo. Ci sarebbe. Sei solo tu, è un duetto, è ufficiale. Duetto. E tornano e funzionano? Funzionano, perché? Perché i duetti di solito funzionano, però guarda, quando c'è una star di livello internazionale, ti parlo musicalmente, e poi c'è una star che però cantante proprio non è, insomma, quella è una cosa che certe volte cerco di spiegarmi. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. Ecco, something stupid, qualcosa di stupido l'avrà fatto Robbie Williams, che ha fatto cantare Nicole Kidman. E ti dava molto fastidio? No, non mi dà fastidio, però insomma, pensando a questa canzone... Vabbè, Carla sì e Nicole no. Carla Siennicol, no, però devi anche vedere il brano, perché questo brano che è del 1966, che è stato scritto da Carson Parks, che lui ha cantato all'epoca con sua moglie Gail, ragazzi, la versione più famosa è del 67, l'anno dopo è, insomma, è Frank Sinatra e sua figlia Nancy, cioè, un'altra meno, cosa vuol dire? Un po' sì, insomma, un livello un po' un più po', vabbè, sì, insomma, ecco. Comunque, a proposito di duetti, il 24 maggio c'è un altro tipo di duetto. Vladimir Putin e George Bush firmano a Mosca, al Cremlino, un trattato sulla riduzione dei rispettivi armamenti nucleari strategici. Un incontro importante, ma a Mosca, in questo 2002, diventa protagonista di un fatto di cronaca drammatico. Infatti, il 23 ottobre, un comando di terroristi ceceni fa irruzione nella sala del teatro Dobrovka e prende in ostaggio gli spettatori. A trattare con i terroristi c'è una donna, una giornalista che forse all'epoca non era così conosciuta come lo è diventata più tardi in Italia, e si tratta di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che fece da mediatrice tra il governo e i terroristi assediati nel teatro. È dura. Pensavo che fosse più facile. Cioè? Cosa ci puoi dire? Sono rimasta molto colpita dalle condizioni psicologiche in cui si trovano gli ostaggi. Sono disperati, sono rassegnati a morire e lo dicono esplicitamente. Che i boivichi siano pronti a morire, beh, questo lo posso capire. In fondo fa parte del loro mestiere. Ma vedere che anche gli ostaggi sono crollati e pensano che tutto finirà male, questa è una cosa che faccio fatica a sopportare. Allora, dov'è l'acqua da portare dentro? Ecco, purtroppo l'intervento della Politkovskaya non è risolutivo e il 26 ottobre le forze speciali dei servizi segreti fanno irruzione nel teatro, aprendosi la strada con il gas. L'assalto si risolve in una carneficina, muoiono 33 terroristi e almeno 174 ostaggi. Ecco, Franky, intanto in Italia la Camera approva la famosa Bossi-Fini, la nuova legge sull'immigrazione che dà nuove regole sul permesso di soggiorno, che viene vincolato a un contratto di lavoro, e sull'espulsione per gli stranieri privi di permesso, non senza polemiche. Ecco, la Bossi-Fini, esatto. Insomma, un altro duetto, insomma, ecco, oggi è una giornata di duetti. Dici? Sì, ci sta. Ecco, allora, prendiamo un altro duetto, mettiamo insieme, sì, sì, un mostro sacro del rock e mettiamogli vicino una giovane di talento. Tell me just what you want. Love, Santana e Michelle Branch. Pensa... Ma lo sai, bravo? Io sì, non me la ricordavo, mi piace da pazzi, finisce questa... diretta nella playlist. È perfetta per quando quest'estate andrai da qualche parte, la metterai in macchina e ti farai la tua strada senza sentire i chilometri che passano. Mi vedi che guido, sì, libera, che guidi, su una costa. Che guidi. Comunque, questa Michelle Branch lo ha interpretato con Santana. Santana aveva coinvolto Tina Turner, ha registrato una versione, poi ha detto mi sembra poco rock, mi aspettavo di più da te, Santana. Ah, sì? Sì, detto, no, non la facciamo uscire. Lui prese Michelle Branch e diventò un successo internazionale, tanto di successo che poi nel 2007, in questo album che si chiama The Ultimate Santana, è uscita la versione poi con la famosa Tina Turner. A me va benissimo Tina Turner, mi va benissimo Michelle Branch, però c'è qualcuno che qui si sta un pochino dimenticando, Franky. Siamo nel 2002 e lei dov'è? Dov'è? C'è. I'm gonna break the cycle. Coccola, questa era Madonna con Die Another Day, la colonna sonora del film La morte può attendere del 2002. E quando hai fatto la colonna sonora di 007 vuol dire che ce l'hai veramente fatta. Però io ho sofferto e ti ho capito quando senti delle cose che non puoi sentire, tipo Like a Prayer, Mad Ma Madhouse. Dai, non me la mettere mai più. Vabbè, però è classifica, è avuto successo. Non lo so, facciamo nemmeno. Comunque, pensavo che ti piacesse anche questa Madonna no. un po' annacquata. Ho capito che Ok, forse allora, è passato, dalla prossima volta soltanto Madonne originali per the te. The original. Va bene, the original, ok. Franchi, si vota in Francia in questo 2002. Il 21 aprile, al primo turno delle elezioni presidenziali, c'è la clamorosa affermazione del leader di estrema destra Jean-Marie Le Pen. Prende il 16,95% dei voti e arriva dietro Jacques Chirac, che ne prende il 19,71%, ma davanti al premier socialista Jospin, che si dimette in diretta televisiva. In tutta la Francia intanto sfilano cortei contro il Fronte Nazionale, e oggi invece sono alle prese con la figlia Marie Le Pen. E sempre in Francia, a Parigi, il 14 luglio, mentre si celebrano i festeggiamenti della presa della Bastiglia, un uomo spara al presidente Chirac, ma fortunatamente il colpo non raggiunge il presidente. Questa la vorrei sentire tutta in realtà. Mi sembra una canzone francese. No, c'è un motivo. Perché ti volevo portare in Brasile, dove il 27 ottobre viene eletto Lula da Silva, detto Lula e basta, candidato del Partito dei Lavoratori, che prende il 61% dei voti. Un uomo che viene dal popolo, dalla miseria, e diventa presidente della Repubblica. Notizia che arriva dall'estero, perché il 19 novembre in Spagna la petroliera Prestige resta incagliata e si spezza in due parti al largo della Galizia, con 77.000 tonnellate di combustibile, inquinando oltre 500 chilometri di costa. Ovviamente il disastro ecologico è incalcolabile. Beh, un bel disastro, disastro. Sì. Però anche per Madonna sta per arrivare un disastro. Certo non è come quello della Galizia, però deve cominciarsi a guardare le spalle, perché stanno arrivando delle altre prime donne. Protected, Britney Spears and Get the Party Started. Questa è. Ma senti come pronunci? Ti piace? Molto. Ecco, però, per la tua cara Madonna, il vero pericolo non arrivano dagli Stati Uniti, ma dal Canada. E allora Alan Morissette con Hans Kline. Come l'hai chiamata? Alan Morissette. Alanis. Sì, è yes. Complicated di Avril Lavigne. L'ho detto bene? L'hai detto, piace? Ci è piaciuto come l'hai detto. Ecco, sono la seconda che hai detto. Bravo, grazie. Prego. Comunque è il fenomeno, ha detto, anche delle cantanti della porta accanto. Sono delle ragazze come la vicina mia, normalissime. Non c'è dubbio, uguale. Cantala. Sembra tutta Alanis Morissette, identica. Uguale. E senti, comunque loro sono aiutati molto dai social, sai, ormai il net impera sovrano, la così questa cosa rete che c'è, la rete che aiuta questa sconosciuta, questo, sì, per me ancora era sconosciuta. Penso quando ho comprato il primo computer, era proprio di quel periodo, mio figlio mi disse: papà, benvenuto nel XX secolo. Non male. Vabbè, però ci sei arrivato anche ho tu. Lasciato la mia Levetti da parte con una lacrimuccia. Comunque hanno ragione loro, insomma, queste artiste hanno venduto milioni e milioni di copie e sono diventate un nuovo fenomeno emergente a tutti i livelli. E allora, Frankie, nel 2002 però escono anche tanti tanti film. Ci sono, ti faccio un po' di nomi, per esempio Chicago, Gangs of New York, La 25esima ora, prova a prendermi, il mio preferito, già per il titolo, sì, Catch Me If You Can, bellissimo. Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, Star Wars, episodio 2, City of God, Era mio padre, bellissimo, The Hours, altro film meraviglioso, Minority Report, Sognando Beckham, te la ricordi lei con, sì, il poster che gioca a pallone? Fantastico. Però ti voglio parlare di due film italiani. Il primo è Pinocchio, che è diretto e interpretato da Benigni, ovviamente, che firma anche la sceneggiatura con Vincenzo Cerami. Costa circa 45 milioni di euro ed è il film più costoso della storia del cinema italiano ed è anche il 12esimo film ad avere incassato di più in Italia. Ma la chicca però, Franco, è un altro film italiano, il primo di un regista che farà molta strada ed è L'Imbalsamatore. Guarda che lui è una persona straordinaria. Sì. Mi ha insegnato cose che non sapevo. Che... Cioè? Come si uccidono gli animali? Poi che fai? Passi agli uomini? Tu non puoi immaginare come sono contento di averti trovato. Vabbè, non esageriamo. Ecco, il noir di Matteo Garrone, regista di cui cominceremo a sentir molto parlare, perché è il regista di Gomorra nel 2008, per dirne uno. A Cannes invece la Palma d'Oro va Il Pianista di Polanski, ma il grande, grandissimo evento dell'anno riguarda i bambini, ragazzini, anche adulti, cioè pieno di fan ovunque. E comincia, comincia. Sei pronto? Sì, comincia. Sì, perché il 10 dicembre del 2002 esce in 400 sale italiane Harry Potter e la Camera dei Segreti. La Camera dei Segreti è stata aperta. Nemici dell'erede temete. È scritto col sangue. Ora tocca a voi, mezzo sangue. Mi ha chiamata mezzo sangue. Non è vero. Cos'è un mezzo sangue? Vuol dire uno col sangue sporco. È un insulto spregevole per quelli che sono nati babbani. Quelli che non hanno i genitori maghi. Una come me. È orribile. Ed è anche un sacco di fesserie. Chiappini, però tu non fare il babbano. Va bene, ti vedo, fai il babbano, sta facendo. È il secondo film questo tratto dalla saga della scrittrice inglese Rowling, campione di incasso, eccetera. Ma Franco, tu mi parlavi invece della cantante della porta accanto, che mi ha fatto venire in mente proprio la mia vicina. Ecco, ma in Italia, a parte la mia vicina, chi potrebbe rappresentare questa musicalmente queste caratteristiche, questa nuova tendenza? C'è qualcuno? Sì, lei di sicuro. Si dice che ad ogni rinuncia risponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una larga... Carmen Consoli con L'Eccezione. Devo anche dire che in quel periodo, mentre io ero a New York, Carmen Consoli, Elio Le Storie Tese, Franco Battiato, Paolo Conte e moltissimi altri di questo livello venivano a New York e riempivano i club, riempivano anche i piccoli teatri, quindi avevano già molto successo all'epoca. Mi hai riportato a New York, quindi, da Carmen Consoli, sì, che noi... Ma lei è venuta diverse volte a New York, sempre guarda... Guarda, sempre secondo me non contraddico la migliaccio se ti dico che noi depresse del 2000 a un certo punto cantavamo questa canzone, ovvero che in ogni rinuncia corrisponde una contropartita. Guarda, tutte false consolazioni. Ho capito. Non torna il ho conto. Capito, quindi andiamo capito a New York sereni. Allora Frankie, che ci siamo persi di newyorkese in Italia? Italia. Ah, allora, sicuramente questo. Guarda, vi tiro un po' su a Tiale Migliaccio, ok? Without me, Eminem, e questi sono i Red Hot Chili Peppers, God, by the way. Frankie. Allora. Frankie, te li ricordi i mondiali di calcio in Corea e Giappone? Assolutamente. Io no. Però sembra che a vincerli... Non mi sono perso una partita, sì. Ma per carità. Però io ti dico, io ti posso dire che a vincerli è stato il Brasile di Ronaldo, che sconfigge la Germania e conquista per la quinta volta il campionato del mondo. Ma per l'Italia questi vengono anche ricordati come altri mondiali, i mondiali dell'arbitro Moreno. Lui invece me lo ricordo, penso. L'arbitro più odiato dagli italiani, che determina le sorti dell'Italia eliminata agli ottavi dalla Corea. Scusa, lo rifaccio. Okay, Schipani, okay. Si mangia una mano, scusa, non ti far male. Guarda, ho rischiato di spaccare un televisore. E invece c'è anche una cosa sportiva che mette tutti d'accordo, perché Schumacher vince il Gran Premio di Francia e il suo quinto titolo mondiale di Formula 1, come la Germania in pratica. Franchi, ci siamo persi qualcosa? Ad esempio... un pezzo che ascoltavano tutti, pure tutti, gli eschimesi, tutti, vai, tutti. Assolutamente sì, e secondo me questo lo ricordi anche tu. Ricordi? Franchi, ti sfido a cantarlo. No. Se qualcuno riesce a cantare questo pezzo. Guarda, assolutamente. È impossibile. Anzi, questi sono le Last Ketchup. Pensa che è il nome originale. Last Ketchup. Comunque sono tre ragazze spagnole, hanno avuto un successo interplanetario, chiaramente. E questo brano è andato primo in classifica in tutti i paesi, e sono tanti dove è stato pubblicato, però negli Stati Uniti no. Per questo l'hai scelto. Esatto. Bene. Adesso però noi chiudiamo, come sempre, arriviamo alla fine del 2002, sempre con un brano scelto da Antonella Migliaccio. A Sanremo, il tuo amato Sanremo, quest'anno si presenta Daniele Silvestri, che non ci piace per niente, con un brano accompagnato da un balletto trascinante, ed è, te lo ricorderai, Salirò, yes. Che si classifica però 14°, ma vince il premio della critica e diventa un successone. Però, visto che Salirò... noi presupponiamo, anzi la Migliaccio presuppone che se lo ricordino tutti, ha scelto una cosa un po' più originale dall'album 1-2 di Silvestri, ed è Il mio nemico, un brano contro la guerra con una citazione della guerra di Piero di Fabrizio De André. Noi ci risentiamo, Franchi, quando? Nel 2003. Ciao a tutti da Franco Schipani. Ciao a tutti da Alessandra Fiori. Il mio nemico, Daniele Silvestri. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene un mercante visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene un mercante visa, e quando uccide non chiede scusa.